Se non avessi smesso da tempo di radermi i baffi e ne avessi avuto soltanto un'ombra, la somiglianza sarebbe stata quasi completa. Forse era stato guardando a Balbec i miei baffi, che ricominciavano appena a spuntare, che Albertine aveva avuto di colpo quel desiderio impaziente, furioso di tornare a Parigi. Ma non posso mica dirvi che è vero solo perché voi non ci trovate niente di male. Vi giuro che non ho mai fatto niente con Albertine e sono convinta che lei detestasse queste cose. La gente che ve l'ha detto vi ha mentito, forse per interesse, disse André in tono interrogativo e diffidente. E va bene, visto che non me lo volete dire, replicai, preferendo farle credere che tacevo una prova di cui non ero in possesso. Tuttavia pronunciai vagamente e ad ogni buon conto il nome delle Buttes Chaumont. Può darsi che io sia andata alle Buttes Chaumont con Albertine, ma è forse un posto malfamato. Le chiesi se non avrebbe potuto parlarne a Giselle, che in un certo periodo aveva conosciuto molto bene Albertine, ma André dichiarò che dopo un'infamia di cui Giselle si era ultimamente macchiata nei suoi confronti, chiederle un piacere era l'unica cosa che si sarebbe sempre rifiutata di fare per me. «Se la vedete», aggiunse, «non ditele quel che vi ho detto di lei, inutile che me ne faccia una nemica. Sa cosa penso di lei, ma ho sempre preferito evitare rotture violente che portano solo ad accomodamenti. E poi Giselle è pericolosa. In ogni caso, quando si è letta una lettera come quella che ho avuto sotto gli occhi una settimana fa e in cui lei mentiva con tanta perfidia, credetemi, non c'è niente, neanche la più bella azione del mondo, che possa cancellarne il ricordo. Insomma, se André aveva quei gusti, al punto da non curarsi di nasconderli, e Albertine aveva avuto per lei il grande affetto che certamente aveva avuto, e malgrado tutto ciò André non aveva mai avuto relazioni carnali con Albertine e aveva sempre ignorato che Albertine avesse gli stessi gusti, era perché Albertine non li aveva. Né certo poteva aver avuto con altre persone quei rapporti che più che con qualsiasi altra avrebbe avuti con André. Così, quando André se ne fu andata, mi accorsi che la sua affermazione tanto recisa mi aveva tranquillizzato. Ma essa forse era stata dettata dal dovere al quale André si credeva obbligata verso la morta, il cui ricordo sussisteva in lei, di non lasciare che si credesse ciò che Albertine le aveva probabilmente chiesto, quando era viva, di negare. Quei piaceri di Albertine, che dopo aver così spesso cercato di immaginarli, mi era parso per un istante di vedere contemplando André, un'altra volta credetti di sorprenderne la presenza in altro modo che con gli occhi, credetti di udirli. In una casa d'appuntamenti avevo fatto venire due piccole lavandaie di un quartiere dove spesso si recava Albertine. Sotto le carezze dell'altra, una di loro cominciò di colpo a far udire qualcosa di cui sulle prime non riuscii ad afferrare cosa fosse, perché non si capisce mai il significato di un rumore originale, espressivo di una sensazione che noi non proviamo. Se lo si sente da una stanza vicina e senza vedere niente, si può prendere per una risata irrefrenabile ciò che la sofferenza strappa ad un malato durante un'operazione da sveglio, mentre il rumore che esce da una madre alla notizia della morte di un figlio ci può sembrare, se non sappiamo di che si tratta, non più suscettibile di traduzione umana del rumore che sfugge a una bestia o a un'arpa. Ci vuole un po' di tempo per capire come quei due rumori esprimano qualcosa che, per analogia con quanto, sia pure in modo affatto diverso, noi stessi abbiamo potuto provare, chiamiamo sofferenza. E così pure mi ci volle del tempo per capire come quel rumore esprimesse qualcosa cui, sempre per analogia con quanto io stesso assai diversamente avevo provato, diedi il nome di piacere. E questo doveva essere ben forte per sconvolgere a quel punto l'essere che lo provava, traendone quel linguaggio sconosciuto che sembra designare e commentare ogni fase del dramma delizioso vissuto dalla donna e nascosto ai miei occhi dal sipario irrimediabilmente abbassato per chiunque non sia lei su quanto avviene nel mistero intimo di ciascuna creatura. Le due piccine, d'altronde, non furono in grado di dirmi nulla. Non sapevano chi fosse Albertine. Spesso, in un'introduzione, i romanzieri sostengono d'aver incontrato, viaggiando per un certo paese, qualcuno che ha raccontato loro la vita di una persona. Lasciano allora la parola a quell'amico occasionale e il racconto fatto da costui è appunto il loro romanzo. Così, la vita di Fabrizio Del Dongo fu raccontata a Stendhal da un canonico di Padova. Quando amiamo, cioè quando l'esistenza di un'altra persona ci sembra misteriosa, come vorremmo trovare un narratore altrettanto informato? E certamente esiste. Noi stessi non raccontiamo forse tante volte, senza alcuna passione, la vita di questa o quella donna a un amico o a un estraneo che non sapevano niente dei suoi amori e ci ascoltano con curiosità. Quello che ero io quando parlavo a Bloch della principessa di Guermont, di Madame Swann, l'essere in grado di parlarmi di Albertine, quell'essere, esiste. Esiste sempre un essere siffatto. Ma noi non lo incontriamo mai. Mi sembrava che se fosse riuscito a trovare delle donne che l'avevano conosciuta, avrei appreso tutto ciò che ignoravo. E pensare che a un estraneo sarebbe parso che nessuno potesse conoscere la sua vita meglio di me. E poi non conoscevo forse la sua migliore amica, André? Allo stesso modo si crede che l'amico di un ministro debba sapere la verità su certe faccende o che non potrà essere implicato in un processo, se non che a frequentarlo l'amico ha scoperto che il ministro, ogni volta che lui gli parlava di politica, rimaneva sulle generali dicendogli tutto al più quello che c'era sui giornali e quando ha avuto qualche fastidio i suoi molteplici tentativi presso il ministro non hanno portato ad altro che a un «non è in mio potere», su cui l'amico si trova a sua volta senza potere. Dicevo fra me, se avessi conosciuto dei tali testimoni, di persone dalle quali, se le avessi conosciute, non avrei ottenuto niente di più che da André, lei stessa depositaria di un segreto che non voleva rivelare. Diverso anche in questo da Swann, che quando non fu più geloso smise d'essere curioso di quanto Odette avesse potuto fare con Forcheville, anche dopo la fine della mia gelosia, niente per me aveva fascino se non conoscere la lavandaia di Albertine. Persone del suo quartiere, ricostruirvi la sua vita, i suoi intrighi. E poiché il desiderio nasce sempre da un prestigio progresso, come era successo per Gilberte, per la duchessa di Guermont, fu nei quartieri dove un tempo era vissuta Albertine. Furono donne del suo ambiente che cercai, le sole di cui avrei potuto desiderare la presenza. Anche se non potevano rivelarmi nulla, le sole donne verso le quali mi sentivo attratto erano quelle che Albertina aveva conosciute o avrebbe potuto conoscere, donne del suo ambiente o di ambienti che lei amava, in una parola, quelle che possedevano ai miei occhi il prestigio di assomigliarle o di essere donne che le sarebbero piaciute. Ricordandomi così, sia la stessa Albertina, sia il tipo per il quale lei aveva una probabile preferenza, queste donne destavano in me un sentimento crudele di gelosia o di rimpianto che più tardi, quando la mia pena si placò, si mutò in una curiosità non esente da fascino. E, fra loro, soprattutto le ragazze del popolo, a causa della vita così diversa da quella a me nota che esse conducono. Certo, è solo col pensiero che si possiedono le cose. Non si possiede un quadro perché lo si tiene in sala da pranzo se non si è in grado di capirlo, né un paese perché vi si risiede senza nemmeno guardarlo. Ma in altri tempi avevo pur avuto l'illusione di riafferrare Balbec quando a Parigi Albertine veniva a trovarmi e io la tenevo fra le braccia. Così come stabilivo un contatto, d'altronde alquanto ristretto e furtivo, con la vita di Albertine. L'atmosfera delle fabbriche, una conversazione da banco, l'anima dei tuguri, quando baciavo un'operaia. André, queste altre donne, tutto ciò in rapporto ad Albertine, come la stessa Albertine era stata in rapporto a Balbec, erano di quei surrogati di piaceri che si sostituiscono l'un l'altro per successiva degradazione, permettendoci di fare a meno di quello cui non possiamo più approdare, viaggio a Balbec o amore di Albertine. Quei piaceri, come quello d'andare a vedere al Louvre un Tiziano che un tempo era là consola di non poter andare a Venezia, che, separati gli uni dagli altri da sfumature inafferrabili, fanno della nostra vita come un susseguirsi di zone concentriche, contigue, armoniche e digradanti, attorno a un desiderio primario che ha dato il tono, eliminato ciò che non si fonde con lui, diffuso il colore dominante. Lo stesso m'era accaduto, ad esempio, per la duchessa di Guermont e per Gilbert. André, quelle donne erano per il desiderio, che sapevo ormai inesaudibile, di avere Albertine accanto a me. Ciò che era stata una sera prima che conoscessi Albertine, se non di vista, quando credevo che non avrei mai potuto soddisfare il desiderio di averla accanto a me, la solarità fresca e tortuosa d'un grappolo d'uva. Associate ora al ricordo del mio amore le particolarità fisiche e sociali di Albertine, a dispetto delle quali l'avevo amata, orientavano invece il mio desiderio verso ciò che un tempo meno naturalmente avrebbe scelto, delle brune della piccola borghesia. Certo, quel che cominciava parzialmente a rinascere in me era l'immenso desiderio che il mio amore per Albertine non era riuscito a saziare, l'immenso desiderio di conoscere la vita, provato un tempo per le strade di Balbec, nelle vie di Parigi, desiderio che m'aveva fatto tanto soffrire quando, supponendo che esistesse anche nel cuore di Albertine, avevo voluto privarla dei mezzi per soddisfarlo con altri che con me. Ora che potevo sopportare l'idea del suo desiderio, e poiché essa era immediatamente risvegliata dal mio, questi due immensi appetiti coincidevano, avrei voluto che potessimo abbandonarci ad essi insieme. Mi dicevo, questa ragazza le sarebbe piaciuta, e con uno scarto brusco al pensiero di lei e della sua morte mi sentivo troppo triste per essere in grado di perseguire ulteriormente il mio desiderio. Come un tempo, Miseglise e Guermont avevano gettato le basi del mio gusto per la campagna e mi avrebbero impedito di trovare un fascino profondo in un paese dove non ci fossero né vecchie chiese, né fiordalisi, né botton d'oro. Così era collegandole dentro di me a un passato pieno di fascino che il mio amore per Albertine mi faceva cercare esclusivamente un certo genere di donne. Ricominciavo, come prima di amarla, ad aver bisogno di armoniche sue che fossero intercambiabili col mio ricordo, fattosi a poco meno esclusivo. Non mi sarebbe potuta piacere adesso una bionda e fiera duchessa, perché non avrebbe destato in me nessuna delle emozioni che partivano da Albertine, dal mio desiderio di lei, dalla gelosia patita per i suoi amori, dalle mie sofferenze per la sua morte. Le nostre sensazioni hanno infatti bisogno, per essere forti, di scatenare in noi qualcosa di diverso da loro, un sentimento che non potrà appagarsi nel piacere, ma che si aggiunge al desiderio, lo gonfia, fa che si aggrappi disperatamente al piacere. A mano che l'amore provato forse da Albertine per certe donne smetteva di farmi soffrire, collegava quelle donne al mio passato, dava loro qualcosa di più reale, così come ai botton d'oro, ai biancospini, il ricordo di Combray dava più realtà che ai fiori nuovi. Della stessa André non mi dicevo più con rabbia Albertine l'amava, ma al contrario con commozione, per spiegare a me stesso il mio desiderio, sì, Albertine l'amava. Capivo adesso i vedovi, che crediamo consolati e che al contrario dimostrano d'essere inconsolabili perché si risposano con la cognata.